Come ho già detto, pensai, ma solo molto più tardi, che quella seconda volta, il giorno delle confessioni, Andrea avesse invece cercato di farmi soffrire. E mi sarebbe venuto in mente subito mentre lei parlava, perché ne avrei sentito il bisogno se avessi ancora amato Albertine. Ma le parole di Andrea non mi facevano più abbastanza male perché mi fosse indispensabile giudicarle immediatamente menzognere. Insomma, se quello che diceva André era vero, e sulle prime non ne dubitai, l'Albertine reale che venivo scoprendo dopo aver conosciuto tante diverse apparenze di Albertine differiva ben poco dalla fanciulla orgiastica comparsa e presagita il primo giorno sulla diga di Balbec e che mi aveva poi offerto tanti aspetti, non diversamente da come modifica via via la disposizione dei suoi edifici sino a schiacciare e a cancellare il monumento principale che si scorgeva solitario da lontano, una città a cui ci si avvicina, ma le cui vere proporzioni, quando la si conosce bene e la si giudica esattamente, erano infine quelle indicate dalla prospettiva del primo colpo d'occhio, già che tutto il resto per cui si era passati altro non era se non quella serie successiva di linee di difesa che ogni essere frappone al nostro sguardo e che bisogna superare una dopo l'altra e a prezzo di tante sofferenze prima d'arrivare al cuore. D'altronde, se non ebbi bisogno di credere assolutamente all'innocenza di Albertine perché la mia sofferenza era diminuita, posso dire che, reciprocamente, se non soffersi troppo di quella rivelazione fu perché da qualche tempo alla convinzione cui ero pervenuto dell'innocenza di Albertine si era poco a poco sostituita, ma senza che me ne rendessi conto, la convinzione sempre presente in me della sua colpevolezza. Ora, se non credevo più all'innocenza di Albertine, era perché non avevo già più il bisogno, il desiderio appassionato di crederci. È il desiderio a generare la convinzione. E se di solito non ce ne rendiamo conto, è perché la maggior parte dei desideri creatori di convinzioni finiscono, contrariamente a quello che mi aveva persuaso dell'innocenza di Albertine, soltanto con noi stessi. A tante prove che corroboravano la mia prima versione, avevo preferito stupidamente delle semplici affermazioni di Albertine. Perché le avevo creduto? La menzogna è essenziale all'umanità. Vi svolge un ruolo altrettanto importante, forse, quanto la ricerca del piacere, ricerca da cui è d'altronde comandata. Si mente per proteggere il proprio piacere o il proprio onore se la divulgazione del piacere è contraria all'onore. Si mente durante tutta la vita, persino, soprattutto, forse esclusivamente, a quelli che ci amano. Solo loro, infatti, minacciano il nostro piacere e di loro soltanto desideriamo la stima. All'inizio avevo creduto Albertine colpevole e solo il mio desiderio, adibendo a un'opera di dubbio tutte le risorse della mia intelligenza, m'aveva messo sulla falsa strada. Viviamo, forse, circondati da indicazioni elettriche, sismiche, che bisogna interpretare in buona fede per conoscere la verità dei caratteri. Se devo dirlo, per quanto triste fossi, malgrado tutto, per le parole di André, mi sembrava più bello che la realtà concordasse alla fine con ciò che il mio istinto aveva subito intuito, che non con il miserabile ottimismo cui m'ero poi vigliaccamente abbandonato. Preferivo che la vita fosse all'altezza delle nostre intuizioni. Queste, che risalivano al primo giorno sulla spiaggia, quando mi era parso che quelle fanciulle incarnassero la frenesia del piacere, il vizio, e anche alla sera in cui avevo visto l'istitutrice di Albertine far entrare quella fanciulla appassionata dentro la villetta come si spinge dentro la gabbia una belva che niente, a dispetto delle apparenze, potrà poi addomesticare, non si accordavano del resto con quanto m'aveva detto Bloch quando mi aveva reso così bella la terra, mostrandomi e facendomi così in tutte le mie passeggiate fremere ad ogni incontro l'universalità del desiderio. Malgrado tutto, quelle prime intuizioni era forse meglio che le incontrassi di nuovo, verificate, soltanto ora. Mentre era in pieno corso il mio amore per Albertine, esse mi avrebbero fatto troppo soffrire, ed era meglio che non ne fosse sopravvissuta che una traccia, quel mio perpetuo sospetto di cose che non vedevo e che non smisero tuttavia d'accadere a così poca distanza da me. E forse un'altra traccia ancora anteriore, più vasta, che era il mio stesso amore. Sceglierla, amarla, non voleva dire, infatti, nonostante tutti i dinieghi della mia ragione, conoscere Albertine in tutto il suo orrore. E anche nei momenti in cui la diffidenza si assopisce, l'amore non è forse la persistenza e una trasformazione. Non è una prova di lungimiranza, prova non intelligibile per l'amante, visto che il desiderio, andando sempre verso ciò che è più opposto a noi, ci costringe ad amare ciò che ci farà soffrire. Nel fascino d'un essere, nei suoi occhi, nella sua bocca, nella sua figura, entrano certamente gli elementi a noi ignoti, suscettibili di renderci massimamente infelici, cosicché sentirci attratti verso quell'essere, cominciare ad amarlo, significa già, per innocente che vogliamo crederlo, leggere in una diversa versione tutti i suoi tradimenti e le sue colpe. E queste grazie che materializzavano così per attrarmi le parti nocive, pericolose, mortali di un essere, erano con quei veleni segreti in un più diretto rapporto di causa ed effetto di quanto non lo sia il seducente rigoglio di certi fiori velenosi con il loro succo micidiale. Forse, mi dicevo, era stato proprio il vizio di Albertine, causa delle mie sofferenze future, a produrre in lei quei modi buoni e schietti, da cui nasceva l'illusione di poter avere con lei lo stesso cameratismo leale senza restrizioni che si ha con un uomo, così come un vizio parallelo aveva prodotto nel signor di Charlieu una finezza femminile della sensibilità e della mente. Nel più completo accecamento, la perspicacia sopravvive sotto la forma stessa della predilezione e della tenerezza. Non ha dunque senso parlare in amore di cattiva scelta, dal momento che, se scelta c'è, non può essere che cattiva. Quelle vostre passeggiate alle Buttes-Chaumont fu quando venivate a prenderla a casa? Chiesi ad André. Oh, no. Dal giorno in cui tornò con voi da Balbec, tranne ciò che vi ho raccontato, Albertine non fece più niente con me. Non mi permetteva nemmeno di parlarle di quelle cose. Ma, André, bambina mia, perché mentirmi ancora? Per un caso singolarissimo, dato che io non cerco mai di sapere le cose, ho appreso fin nei minimi dettagli di cose del genere che Albertine faceva, posso precisarvi, in riva all'acqua con una lavandaia, proprio pochi giorni prima della sua morte. Ah, non so, dopo avervi lasciato può anche darsi. Sentiva che non era riuscita, che non sarebbe mai più riuscita a riconquistare la vostra fiducia. Queste ultime parole mi angosciavano. Poi ripensavo alla sera dei fiori di Filadelfo. Ricordavo che, circa 15 giorni dopo, poiché l'oggetto della mia gelosia continuava a cambiare, avevo chiesto ad Albertine se avesse mai avuto dei rapporti con André e lei mi aveva risposto: «Oh no, mai! Adoro André, certo, ho per lei un affetto profondo, ma come per una sorella. E anche se avessi i gusti che sembrate attribuirmi, è l'ultima persona alla quale avrei pensato in quel senso. Posso giurarvelo su chi volete, su mia zia, sulla tomba della mia povera mamma». Io le avevo creduto. Eppure, se a destare la mia diffidenza non era bastata la contraddizione fra le sue mezze confessioni d'un tempo a proposito di cose che poi aveva negate non appena visto che non mi lasciavano indifferente, avrei dovuto ricordarmi di Swann, persuaso del platonismo delle amicizie del signor di Charlieu e pronto a dichiararmelo la sera stessa del giorno in cui avevo visto il barone e il farsettaio nel cortile. Avrei dovuto pensare che ci sono, l'uno davanti all'altro, due mondi. Il primo costituito dalle cose che gli esseri migliori e più sinceri dicono. E dietro a questo, il mondo composto dal succedersi di ciò che gli stessi esseri fanno. E così, quando una donna sposata ci dice di un giovanotto: «Oh, è verissimo che ho per lui un'immensa amicizia, ma è una cosa assolutamente innocente, assolutamente pura, potrei giurarlo sulla memoria dei miei genitori», dovremmo noi stessi, anziché esitare, giurarci che con ogni probabilità è appena uscita dalla stanza da bagno dove si precipita, per non avere bambini, dopo ciascuno dei suoi convegni con il giovanotto in questione. I fiori di Filadelfo mi rendevano mortalmente triste. E anche che Albertina avesse creduto, avesse detto che ero subdolo e la detestavo. Più di ogni altra cosa, forse, le sue menzogne, così inattese che facevo fatica ad assimilarle al mio pensiero. Un giorno m'aveva raccontato che era andata in un campo d'aviazione, che era amica dell'aviatore, probabilmente per sviare i miei sospetti dalle donne, pensando che degli uomini fossi meno geloso. Che era divertente vedere come André si meravigliasse di quell'aviatore, dei complimenti che questi faceva ad Albertin, al punto che André aveva voluto fare con lui un giro in aeroplano. Ora, era tutto inventato di sana pianta. Mai André era andata in quel campo d'aviazione, eccetera, eccetera. Quando André se ne andò, era ormai ora di pranzo. «Non indovinerai mai chi mi ha fatto una visita di almeno 3 ore», mi disse mia madre. «Calcolo 3 ore, forse di più, perché è arrivato quasi contemporaneamente alla prima persona, che era Madame Cottard. Ha visto arrivare e andar via senza muoversi tutte le varie visite, e ne ho avute più di 30, e non mi ha lasciata che da un quarto d'ora. Se non avessi avuto la tua amica André, ti avrei fatto chiamare. Ma insomma, chi era? Una persona che non fa mai visite, la principessa di Parma. Decisamente ho un figlio più intelligente di quanto non credessi. Non è divertente farti cercare un nome, lo trovi subito. E non si è scusata della sua freddezza di ieri, no? Sarebbe stato stupido. La sua visita era, appunto, un modo di scusarsi. La tua povera nonna l'avrebbe trovato perfetto. Pare che verso le 2 avesse mandato un lacchè a chiedere se c'è un giorno in cui ricevo. Hanno risposto che era proprio oggi e lei è salita. La mia prima idea, che non osai dire alla mamma, fu che la principessa di Parma, circondata il giorno prima da persone brillanti con cui era in grande intimità e amava conversare, avesse provato, vedendo entrare mia madre, un dispetto che non aveva cercato di dissimulare. Ed era assolutamente nello stile delle grandi dame tedesche, stile largamente adottato del resto dai Guermont, quell'estrema alterigia, cui credevano di porre rimedio con una amabilità scrupolosa. Ma mia madre credette, e in seguito lo credetti anch'io, che molto semplicemente la principessa di Parma, non avendola riconosciuta, non avesse ritenuto di doversi occupare di lei e che avesse saputo chi era dopo che mia madre se n'era andata, o dalla duchessa di Guermont che l'aveva incontrata sulle scale, o dalla lista dei visitatori, cui gli uscieri chiedevano il nome prima che entrassero per iscriverlo su un registro. Le era parso poco gentile far dire o dire a mia madre «non vi ho riconosciuta», ma, procedura non meno conforme della mia prima versione alla compitezza delle corti tedesche e ai modi Guermont, aveva pensato che una visita, cosa eccezionale da parte di un'altezza, e soprattutto una visita di diverse ore, avrebbe fornito a mia madre, in una forma indiretta e altrettanto persuasiva, tale spiegazione, il che in effetti avvenne. Ma non mi soffermai a chiedere a mia madre un racconto della visita della principessa, perché mi ero ricordato di parecchi fatti concernenti Albertin su cui avevo intenzione, e m'ero scordato, di interrogare André. Quanto poco sapevo, d'altronde, e quanto poco avrei mai saputo di quella storia di Albertin, la sola storia che mi avrebbe davvero interessato, o che almeno ricominciasse in certi momenti a interessarmi. L'uomo, infatti, è uno strano essere senza età fissa. Un essere che ha la facoltà di ridiventare in pochi secondi più giovane di molti anni e, circondato dalle pareti del tempo in cui è vissuto, vi galleggia come in una vasca che cambia continuamente di livello, mettendolo alla portata ora di un'epoca, ora di un'altra. Scrissi ad André di tornare. Non le fu possibile che dopo una settimana. Quasi all'inizio della visita le dissi: «Insomma, se Albertin, come sostenete, non faceva più quelle cose quando viveva qui, secondo voi mi ha lasciato per farle più liberamente? Ma con quale amica?» «Assolutamente no, non è affatto per questo». «Allora, perché io ero troppo sgradevole?» «No, no, no, non credo. Credo che sia stata costretta a lasciarvi da sua zia, che aveva dei progetti per lei su quella canaglia, sapete, quel giovanotto che chiamavate «sono in piena crisi», quello che amava Albertin e aveva chiesto la sua mano. Vedendo che voi non la sposavate, hanno avuto paura che lo sconveniente protrarsi del suo soggiorno in casa vostra impedisse anche a lui di sposarla. Madame Bontemps, su cui il giovanotto non smetteva di fare pressioni, ha richiamato Albertin Albertine, in fondo, aveva bisogno dello zio e della zia e quando si è resa conto che le davano un ultimatum, vi ha lasciato. Non avevo mai, nella mia gelosia, pensato a questa spiegazione, ma solo ai desideri di Albertine per le donne e alla mia sorveglianza. M'ero dimenticato che c'era anche Madame Bonton, alla quale poteva apparire strano, dopo un po', ciò che aveva infastidito mia madre sin dall'inizio. Doveva quantomeno temere Madame Bonton che la cosa infastidisse quel possibile fidanzato, tenuto da parte come estrema risorsa per il caso che non l'avessi sposata io. Perché in fin dei conti, contrariamente a quanto aveva creduto un tempo la madre di André, Albertine aveva trovato un buon partito borghese. E quando aveva voluto vedere Madame Verdurin, quando le aveva parlato in segreto, quando si era tanto irritata che fosse andato a una sua serata senza avvertirla, l'intrigo fra lei e Madame Verdurin non mirava a farla incontrare con Mademoiselle Vinteuil, ma con il nipote, che amava Albertine e per il quale Madame Verdurin, a parte la soddisfazione di certi matrimoni che sorprendono da parte di certe famiglie nella cui mentalità non si riesce ad entrare fino in fondo, non teneva a un matrimonio ricco.